Tempo di sport con Carlo Genta. Sì, una medaglia sofferta, insomma, arrivavo qui con da campione del mondo e primo nel ranking mondiale, quindi io ero concentrato su quello che dovevo fare, però c'erano molte distrazioni intorno a me, cioè, si parlava molto di medaglia e di risultato finale. E è stato tutto uno stringere i denti dal primo all'ultimo colpo di finale, dal primo all'ultimo colpo di gara. Io ho veramente dato tutto quello che potevo dare e stavo bravissimo Moldoveanu, che era arrivato quarto alle scorse Olimpiadi, quindi si merita sicuramente l'oro. Oggi è la sua giornata. Per me sono contento che ho fatto quello che dovevo fare, il mio lavoro in condizioni non facili sicuramente. Eccola qui, fresca, l'ottava medaglia della spedizione italiana, siamo terzi nel medagliere, 2 medaglie d'oro, 4 d'argento, 2 di bronzo, questa è la spremuta del weekend e di oggi. Medaglia arrivata con Nicolò Campriani, felicità certamente, perché è un oro olimpico, un argento olimpico, è una vittoria ma è una sconfitta, ma un filo di amarezza si sentiva perché Campriani ha comandato questa gara che Dario Ricci, nostro inviato a Londra, ha visto vibrare fino agli ultimi colpi di carabina. Ciao Dario. Ciao Carlo, che emozione il tiro a segno, vederli vestiti così come dei robot, con questa postura, con questa tuta, e poi una gara incredibile, silenzio assoluto alle Royal Artillery Barracks nel poligono, una gara che, come giustamente sottolineavi, ha visto Campriani sempre lì sul podio e dopo un inizio difficile con un primo tiro da 9.7 e una splendida serie 10.2, 10.7 fino al 10.8 del sesto tiro e poi bissato nel settimo tiro. A quel punto Nicolò era primo, sono arrivati due tiri, però certo non all'altezza dei precedenti, 9.9 e 9.4. Moldoveanu invece ha avuto solamente un passaggio al vuoto al sesto tiro con un 9.9, che comunque certo non è un tiro da buttare via, e quindi diciamo questo passaggio a vuoto tra l'ottavo e il nono tiro dei 10 della serie finale ha compromesso l'oro. Ecco, è sicuramente un argento vinto, come dicevamo Carlo, ma visto anche il palmarès con cui Nicolò arrivava a questa finale c'è anche un po' un pizzico di amarezza, però vale la pena ricordare che a Pechino il grande risultato era sfumato per un errore all'ultimo tiro, e allora quindi sì, questo è davvero un argento vinto. Intanto c'è un'altra notizia in chiave azzurra non così positiva, perché Giulia Quintavalle è stata sconfitta nei quarti dalla giapponese Matsumoto, andrà ai ripescaggi per il bronzo, comunque non potrà difendere il titolo di Pechino nel judo. Dunque Campriani d'argento, 8 le medaglie, sale a quota 8 il conto delle nostre medaglie, il numero verde per intervenire invece sempre 800240024 e il personaggio del giorno è e non può che essere Federica Pellegrini e la sua sconfitta. Io credo fossero in molti seduti sulla riva di quella piscina azzurra ad aspettare che Federica pagasse un po' il conto. Lo ha pagato ieri, poi quelle dichiarazioni di pancia, smetto per un anno, oggi in acqua in quella che è la sua gara principale nei 200, ha nuotato molto bene, conquistando la semifinale con 1.57.16, che è un buon tempo, però resta Federica il personaggio deludente di questo avvio azzurro d'Olimpiade, che è stato comunque meraviglioso perché abbiamo vinto queste medaglie. Sentiamo le voci. Non avevo più di così, quindi ci ho provato fino alla fine e va bene così. Se comunque so di aver dato il massimo, sicuramente è una cosa che fa male, però va bene. Dunque questa era la delusione della Pellegrini, adesso però vogliamo sentire la voce delle medaglie, delle 7 medaglie che ci hanno così illuminato il weekend. Devo far 10, perché ho sentito il pubblico e tutti quanti che dovevano vociferare e ho detto vabbè, allora vabbè, Marco ha fatto 8, devo fare 10 per vincere, vabbè, cerchiamo di tirarla bene. Ho visto volare, ho visto bene il volo nel giallo, vabbè, nel giallo ho passato 9 shoot off, cioè giochiamo ancora bene, 10 vinciamo, 10. A casa un bronzo lo porto, mi dispiace perché ci tenevo tantissimo a fare quello che nessuna donna aveva mai fatto nella storia della scherma. Argento olimpico, però quando sei lì è comunque perso, quindi sì, posso anche essere contenta perché sono la mia prima Olimpiade, quindi sicuramente è una grandissima soddisfazione, però è ovvio, tra il primo e il secondo c'è un abisso. Sì, una grande emozione, grandissima felicità. Soprattutto perché me la sono sudata in tutti i sensi, sia oggi, tutto, che è stato tutto un po' in salita, sia generalmente, sia il fatto di essere qua, comunque il fatto di essere cambiata, di essere maturata, e è da Pechino che volevo questa medaglia. Dal momento che ero qua ho detto ormai ci sei, quindi fai quello che hai fatto sempre, fai la tua gara. Ho fatto una bellissima gara, ho detto vabbè, è un altro sogno che si realizza, entro in finale. Una volta che sono in finale ho detto vabbè, ormai siamo qua, cerchiamo di andare a prendere la medaglia. Un po' di amaro, però so che fra qualche secondo passerà, ecco. Forse l'inizio potevo fare meglio, l'inizio dovevo almeno mantenere, sapevo che lui partiva subito forte e dovevo un pochino mantenere un po' di più. Però guarda, è la mia prima medaglia, me la godo tutta. Direi pure un po' di più del paladino, sì. Ma la dedica a mio padre nasce dal sacrificio, penso. Che comunque sia, mi devo divertire, devo fare una medaglia, soprattutto in onore dei sacrifici che ha fatto la mia famiglia. Sei qui per dire, mi devi dire, che il meglio deve ancora venire. Meglio deve ancora venire. Speriamolo, 8 medaglie comunque sono già tante, le abbiamo sentite di Francesca nel fioretto, il tiro con l'arco a squadre, Rigo, Chiuzzi, Tesconi e Campriani. Ora per i 4 argenti, le 2 medaglie di bronzo, Vezzali, Forciniti, con le reazioni opposte. Mi piacerebbe sentire la vostra voce, la voglio sentire, 800 24 00 24, non solo sul patteggiamento di Conte e di Bonucci, di cui avremo poi modo di parlare e su cui c'è un grande dibattito, ma come Conte patteggia vuol dire che ammette la pena, la Juventus sì patteggia, fa il bravo, patteggia, prendi questi 3 mesi ed evitiamo lunghi processi ed evitiamo guai peggiori, forse patteggerà anche Bonucci, ma questi sono tutt'altro che argomenti olimpici. La vostra voce la voglio sentire, mi piacerebbe sentirla sulle Olimpiadi e sulle medaglie, sul flop di Valentina Pellegrini e sulle reazioni diametralmente opposte, mi pare, della Pellegrini e di Valentina Vezzali, con Federica che dice smetto per almeno un anno, poi oggi ha ritrattato. Sentiremo anche queste dichiarazioni di stamattina della Pellegrini: il Capone 400 non cancella la mia storia, voglio un impegno più soft, insomma non ha ancora le idee chiarissime. La Vezzali cosa dice? Sempre a reazione di pancia: vado avanti a oltranza fino a quando quell'altro oro lo becco, voglio la prossima Olimpiade. Anche questa è una reazione di pancia, secondo me, un po' eccessiva. Che dici, Dario Ricci? Sicuramente sono due campionesse diverse, ma che hanno comunque talento e classe in comune, e credo che anzi proprio la grinta della Vezzali dovrebbe essere il riferimento per Federica questa sera e domani nella finale. Io credo che quello che abbiamo visto nella finale del bronzo del fioretto, quello che ha fatto la Vezzali, 4 stoccate in 22 secondi, secondo me quella è stata una delle prime 10 imprese della storia delle Olimpiadi. Si è vista un'atleta soprannaturale, di un livello mentale soprannaturale. Ecco, se Federica riesce a trovare in queste 24 ore quel riferimento, guardando quello, secondo me forse può ancora scavare dentro di sé e trovare qualcosa, ma per sé, non per darci un'altra medaglia, un altro record, sì, perché la riscritta è la storia dei record, ma per sé. Per capire qual è la strada, Dario, per capire, per mettere a fuoco nella sua testa qual è la strada. Ma subito dopo il traffico ne parliamo con un grande del nuoto azzurro, parliamo anche di questo messaggio che non condivido di Gigi da Milano. Scusi, ma quinto posto è sempre un piazzamento onorevole perché parla di sconfitte, incredibile la vostra approssimazione giornalistica. non è un piazzamento onorevole per una campionessa come Federica Pellegrini e per la gara, per i 400 che si sono corsi, lei stessa lo ha ammesso, e questa, su questo SMS non sarebbe d'accordo nemmeno Federica. Io saluto e ringrazio un Hall of Famer del nostro nuoto, Giorgio Lamberti, primo italiano a portarci sul tetto del mondo. Ciao Giorgio, grazie. Ciao, grazie, grazie a voi. Allora, io ho tanti messaggi che vanno dal "ma perché deludente Federica Pellegrini, non è simpatica ma è umana", a quello che invece dice Fabrizio da Roma: "io sono uno di quelli che aspettava Montano e la Pellegrini la loro vita di gossip, io sono per gli atleti che fanno gli atleti, non gli showman". Forse anche la Vezzali, se avesse pensato a stoccare anziché a fare la Prezzemolini in trasmissione tipo Porta a Porta, magari avrebbe vinto l'oro. Quindi questo è l'argomento. Federica Pellegrini ha pagato, Giorgio, alla fine il suo vivere costantemente sotto le telecamere. Ma io credo che non sia questo l'argomento di riferimento, ma è semplicemente legato ad anni anche di preparazione, di logorio, di appagamento e magari anche di questioni prettamente tecniche, parlo di tecniche natatorie. Mi soffermerei su questi aspetti, perché al di là che piaccia o non piaccia l'atleta di vertice, che abbia simpatia e antipatia, va detto che dalla Vezzali alle Pellegrini stiamo parlando di atlete meravigliose, straordinarie, sì, e due serissime professioniste, sì, che in questi tanti anni hanno tenuto altissimo il tricolore e il nome dell'Italia nel mondo, ma soprattutto hanno avuto una continuità disarmanti e unica nelle proprie discipline. Certo, Giorgio, come valuti le reazioni opposte in qualche modo di Federica, che dice adesso smetto per un anno, poi oggi un po' ritratta, ma non ha chiaro bene nemmeno lei quale possa essere il suo futuro, magari dipenderà dai 400, e la Vezzali che invece dice voglio le prossime Olimpiadi a 40 anni. Credo che per Federica valga un po' la considerazione di una esternazione a caldo dopo una gara che direi ha svolto con grande caparbietà, perché non era nelle condizioni di fare tempi straordinari da oro, ma ha lottato, non ha mollato neppure ai 399 metri. Questo al di là del quinto posto, che qualcuno può sembrare deludente, io penso che comunque abbia lottato e non ha mollato minimamente. Questo va riconosciuto a una grande atleta che è abituata a vincere semplicemente medaglie d'oro. Sì, Oggi si è già preso una piccola rivincita nuotando discretamente nella parte del 200, che è il suo ritmo gara. Non sta nuotando benissimo tecnicamente, devo dire, non ha quella fluidità dal lungo della bracciata che era solita negli ultimi 2-3 anni, però ha una, un vigore fisico, atletico che gli sembra intatto, quindi bisognerà capire se la testa che ha riuscirà a sopperire a taluni deficit e sbavature tecniche che ho almeno visivamente riscontrato nei 400. Ecco Giorgio, io ti devo dire che questa mattina abbiamo cercato di parlare, abbiamo provato ad invitare Daniele Popolizio, che è il mental coach di Federica Pellegrini, che ha detto guarda, non ho niente da dire, Federica mentalmente è a posto, da quel punto di vista nessun problema, fisicamente è a pezzi. Io voglio aggiungere a questa una domanda: questo continuo cambio e ricambio di allenatori quanto incide? Mentalmente mi sembra che effettivamente, da quello che si vede e da quello che si intuisce, mi sembra che ci sia, perché se non fosse integra di testa e convinta avrebbe mollato magari 250 metri nella finale dei 4, e così non è stata, e con onore ha gareggiato in una finale olimpica. Per quanto riguarda la forma fisica, non conosco la preparazione che ha svolto negli ultimi mesi, vedo con l'esperienza che ho, vedo come nuota, e come nuota non da ieri ma da almeno 2-3 mesi, e sicuramente un po' di mancanza di fluidità nei movimenti armonici che era riuscita ad acquisire nel tempo, si sono visti, quindi queste carenze poi le paghi a lungo andare. Però dal punto di vista della tenuta atletica mi sembra che non, dire che fisicamente a pezzi mi sembra eccessivo. Ha retto due serie da 400 batterie finali in maniera comunque dignitosa. Oggi va su ritmi diversi che sono i suoi, e cioè i 200 metri. Bisogna capire stasera quali sono i margini operativi suoi e delle avversarie, soprattutto dall'americana. La Muffa ha vinto i 4 ieri, ma stamane si è nascosta un po' in batteria, ma l'ho vista un attimino impazzata. Quindi la testa e il fisico sono due componenti determinanti. Io penso che la voglia di rivalsa ce l'abbia, e come avete detto in precedenza in trasmissione, la testa della Vezzali e anche quella di Federica sono convinto che dovranno sudare per batterlo. Dario, vuoi aggiungere qualcosa lì da Londra per Giorgio Lamberti? Avere Giorgio è un grandissimo onore, solo un'immagine, l'abbraccio adesso proprio di Niccolò Campriani con Petra Zublasi, che è la sua fidanzata e tra l'altro compagna di nazionale, un momento commovente e solare di questa Olimpiadi, di questa giornata che ci ha regalato l'argento. E una domanda per Giorgio: credi davvero che sia questo il capolinea della carriera di Federica, anche perché un anno soft onestamente mi sembra una via poco praticabile per poi rimanere ad alto livello? Qui bisogna capire quante sono le motivazioni che ritroverà in se stessa, soprattutto a riflettori spenti, a telecamere spente, magari fra 20 giorni o un mese. Ha 24 anni, una ragazza, un atleta fisicamente veramente forte, che non ho mai visto una nuotatrice reggere ritmi di allenamento e tenute come Federica ha dimostrato in questi anni. È integra fisicamente, quindi il suo futuro lo deve riscoprire e ritrovare nella sua testa. Ha vinto tutto, è vero, ma io sono convinto che abbia ancora la possibilità di rimanere a altissimo livello. Non so se per 4 anni, perché è un periodo lungo per un nuotatore, ma almeno 2-3 anni, 2 anni fino ai successivi mondiali in grande forma potrebbe reggere. Se si ferma e parzialmente nuotichiando, gestendo un anno così al 70%, temo che possa poi pagarla in seguito. Questo è il grande rischio. Senti, soprattutto dal punto di vista anche della tenuta mentale. La gara di Scozzoli invece? Scozzoli è un grande atleta, ha fatto 300 metri di rana fra batteria, semifinale e finale sotto il minuto, in una delle gare credo tecnicamente più veloci di sempre nella storia del nuoto, cioè i finalisti sotto il minuto, tutti e 8, credo che nessuno sarebbe mai aspettato un livello così atroce e pesante da reggere. È mancato un po' di lucidità fisica nella finale, però credo che Scozzoli abbia dimostrato di essere un grandissimo atleta. Chiaro, la delusione è in tutti noi, perché al di là di essere un grande atleta, è un bravo ragazzo, umile, sempre sul pezzo, di poche parole, un grande lavoratore, quindi il grande rammarico per lui di non aver colto una medaglia olimpica che ampiamente meritava, però succede, ha trovato la gara più veloce della storia e non ha avuto quel mezzo secondo che gli sarebbe bastato per un bronzo almeno. Loro, sì, francamente fuori dalla sua portata tecnicamente, sì, oggi, ma il 59.4 del bronzo di Hansen era la portata. L'aveva nelle braccia e l'ha dimostrato in semifinale. Lui lo sapeva, tanto che la sua delusione non l'ha fatta mancare. Non ho capito nulla di questa gara. Io ho fatto un salto sulla sedia invece quando ho visto la finale della staffetta con la Francia battere gli Stati Uniti di Phelps. Come vedi Phelps? Phelps è... Io ho l'impressione che abbia forse, non so se per presunzione o altro, voluto gareggiare nei 400 misti dopo che per anni aveva una mezza intenzione di abbandonarli. Ha una certa età, ha un programma fortissimo di eventi, ha soprattutto i 200 delfino che potevano e possono essere la gara in cui diviene l'uomo a vincere 3 ore di seguito in 3 Olimpiadi diverse. Mi sarei aspettato un programma olimpico suo un po' più razionale, un po' più attento, magari proprio saltando nel primo giorno di impatto olimpico i 400, che sono dal punto di vista fisico del recupero energetico devastanti, soprattutto poi per il tempo che ha fatto e per il piazzamento che ha ottenuto. Giorgio, grazie, grazie davvero. Grazie a voi, a Giorgio Lamberti, Hall of Famer del nostro nuoto. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire. Ho già un sacco di messaggi al 349 238 6666, che sono o bianchi o neri. Vezzali e Pellegrini distratti da TV e gossip, balle, non sono robot, ci sono anche gli avversari, applaudiamole comunque per l'impegno. Questo è uno. Quello immediatamente precedente di Roberto, quello precedente di Marcello: la Pellegrini pensava troppo ai tacchi da mettere davanti alla TV. Quando si è troppo pieni di sé succede, il prossimo potrebbe essere Usain Bolt. Io non sono d'accordo con il buonismo di chi dice comunque un buon risultato, il quinto posto non è arrivato a 99esima, per una nuotatrice come la Pellegrini, come Federica Pellegrini, con il suo talento, se vogliamo fare dei Coubertin a tutti i costi, facciamolo, oppure fatelo, io no. Secondo me sportivamente è una delusione, ed è una delusione forte. Dario, dove sei? Sono qui proprio. Mi dicono che i miei commenti su Vezzale e Pellegrini sono disonesti e prevenuti. Raccolgo e porto a casa, ma me li tengo. Dimmi, dove sei? Io sono qua sempre al poligono di tiro e si sta ancora festeggiando l'argento di Niccolò Campiani, chiaramente. Ma in merito ai commenti su Vezzali e Pellegrini, difficilmente sono assimilabili le due cose, sono due sconfitte completamente diverse, e chiaramente nell'individuare le cause nessuno ha torto, nel senso che possono essere chiaramente il carattere di Federica, la gestione di quel talento, bisogna ancora chiarire come è stato gestito questa vicenda, anche questa preparazione di questa campionessa a livello federale. Io farei fatica oggi a immaginare, anzi vi chiedo scusa per la scarsa informazione, ma se domani dovesse fare una conferenza stampa, quale CT della nazionale di nuoto la affiancherebbe? Cioè, chi è il referente tecnico ultimo della struttura, eccetera. Sì. Pertinente, Dario, pertinente. Osservazione pertinente, caro Dario. Senti, rimani, hai da fare? No, io sto con voi con piacere. Bene, allora stai lì, c'è Federica, che non so se è la Pellegrini, che mi scrive: volete fare i tuttologi, lei a Caressa di nuoto non capite un cazzo. Grazie Federica, anche questo raccolgo e porto a casa, però proviamo a capire qualcosa di sport, di risultati, avendone visto molto. Paolo dalla provincia di Como. Buongiorno, dica. Guardi, le racconto un bellissimo episodio che mi è capitato ieri. Prego. Stavamo io e mio figlio guardando la televisione, due calciofili incredibili, solo calcio. Ci siamo trovati io e mio figlio a discutere, a osservare le tuffatrici, come si buttavano in acqua, facendo giudizio: ma questo è stato bello. Abbiamo visto altri sport, il tiro con lo skate, il tiro al piattello, a giudicare veramente le prestazioni delle atlete. È stato meraviglioso. Veramente. Vi siete accorti di qualcosa di diverso, non solo di Conte che patteggia insieme a Bonucci e di tutte queste robe qui? Certo. Beh, ma sai, io sono un tuttologo. Quanti anni ha lei? Io ne ho 56. Non avrà scoperte ieri le Olimpiadi? No, io adoro l'atletica, a me piace vedere tutto. Ero al mare e rinunciavo alle giornate di mare per vedere Kova che vinceva Los Angeles. Quindi certo. Immagini. E ovviamente è rimasto collegato con noi Dario Ricci, nostro inviato a Londra alle Olimpiadi. Intanto alle 15 Giulia Quintavalle avrà il match di ripescaggio per inseguire almeno la medaglia di bronzo contro l'austriaca Sabrina Filzmoser. Piero da Milano, poi Giancarlo da Modena, 800 24 00 24, per far sentire la vostra voce. Caro Sammy, che mi scrivi: se la Pellegrini stasera vince state muti fino alla fine delle Olimpiadi, non ci penso neanche, scordatelo, a parte che la finale è domani per il 200, e speriamo che Federica vinca l'oro, facciamo il tifo per Federica perché vinca l'oro, questo è evidente. Stiamo parlando di altre cose. Piero, ciao Carlo. Ciao Piero. Sì, speriamo che vinca l'oro Federica, però intanto dobbiamo festeggiare la squadra di scherma femminile. Sì. Io a memoria non ricordo adesso un'altra tripletta sul podio. No, ma straordinaria, Piero, straordinaria la squadra del Fioretto femminile, ma d'altra parte Non riusciamo a sorprendere, mi dispiace, sto dicendo una cosa brutta, non riusciamo quasi a sorprenderci della loro grandezza, perché sono decenni che vediamo comunque le ragazze del Fioretto con Trillini, Vezzali, con Granbassi, con queste meravigliose atlete vincere. È chiaro che vederle salire tutte e tre sul podio è stato qualcosa di storico e di unico, ma tante cose storiche e uniche queste ragazze ci hanno regalato, tanto che abbiamo finito le parole e gli aggettivi, lì sì, possiamo solo stare muti. Giancarlo, Modena. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei dire due cose molto semplici. La sì. prima è che il personaggio Pellegrini non è una delusione, ma la delusione sono i mezzi di informazione. Mm. E mi spiego il perché. Perché se perdere Pellegrini, perché per anni avete fatto un caso, diciamo, giornalistico, è una delusione. Perdere la Cainero, perdere la Quinta Valle, la cosa passa in secondo ordine, anche se erano campionesse olimpiche in carica. Attenzione. Secondo, no, rimaniamo sul primo, ma allora finisco il concetto. La Pellegrino non può essere stata una delusione, perché non ha perso da delle atlete che ha fatto 4-6, 4-5, ha perso da delle aziende che ha fatto 4-1 e rotti, che nel momento di massimo splendore della Pellegrini, a parte il costume che ha fatto 3,59 quando ha fatto il record del mondo, erano tempi che non aveva fatto neanche lei. Per cui non è che ha perso così, ha perso da gente che è andato mica forte, fortissimo. Sì. Per cui ci può stare, anche perché non era la gara del Fatti Bene Fratelli, era una finale olimpica. Sono d'accordo, però con le premesse con cui era arrivata Federica Pellegrini a queste Olimpiadi, il quinto le posto... Le premesse le avete create voi sempre. No, le create da sola. Vado a vedere in tutto l'anno quali sono le migliori 10 prestazioni, diciamo, in campo natatorio nei 400 stile libere, e trovo la Federica Pellegrini al sesto o settimo posto, vuol dire che c'è della gente che sta andando più forte. Vuol dire che non ha fatto un granché per migliorarsi. Quanto alla storia del siete voi che la mettete sempre in prima pagina, no, ci si mette da sola, mentre Quinta Valle e tutte le altre che ha menzionato, le altre atlete che lei ha menzionato, la Di Francisca eccetera, insomma, sulle prime pagine ci finiscono per meriti sportivi o comunque molto, molto relativamente rispetto a una Federica Pellegrini che ha scelto di vivere sotto i riflettori, e sotto i riflettori ci si mette lei, non siamo noi che la andiamo a cercare, caro Giancarlo, è di questo che stiamo discutendo. Dario Ricci, sei sempre lì? Eh sì, sono sempre qui. Mi viene in mente di pensare che, insomma, se uno ha la medaglia d'oro olimpica dei 200 metri, l'argento di Atene nei 400 stile libero, credo l'unica atleta oltre le pochissime ad aver bissato i 200 e 400 stile libero in due edizioni consecutive dei mondiali, è chiaro che il peso del ruolo... Il peso del ruolo di favorito, ma poi Dario, ha ragione ad esempio Gaetano Da Luca che scrive... al di là dei tempi, perché i tempi sono stati tempi olimpici, a quei tempi Federica non è arrivata. Con Lucas era un'altra storia, con l'allenatore precedente di quello precedente, tu parlavi prima degli allenatori. Gaetano scrive: credo che Federica già un anno fa non avesse più le giuste motivazioni. Il fatto che abbia abbandonato un grande come Lucas la dice lunga. Filippo la faceva lavorare e tanto, perché sa che a certi livelli il talento non basta, questo per rispondere all'ascoltatore di prima. Se la Pellegrini saprà fare autocritica e tornare indietro, nel senso di tornare ad essere un atleta che ha voglia di soffrire, sarà di nuovo grande. Roberto, Padova. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Oh Roberto, ciao. Allora, io sono d'accordissimo con le ultime cose che hai detto sulla Pellegrini, non ha più tanta voglia di fare sacrifici probabilmente, e per questo io parlerei di sconfitta da parte sua, almeno per ora, a meno che stasera non ci smentisca o domani subito immediatamente. Per la Vezzali direi qualcosa di diverso, lei pur essendo una campionessa di prima categoria, diciamo, è alla sua quarta Olimpiade. E quel terzo posto di ieri preso per i capelli, per me diciamo, la considero più una medaglia presa più che una sconfitta. Una medaglia che secondo me alla sua età, alla quarta Olimpiade, per me è benvenuta sicuramente. Ho trovato nell'orlo dell'abisso quattro stoccate impossibili ieri, grandissima come sempre. Però ripeto, per me quella medaglia se l'è veramente guadagnata io. Sì, certo, ma sicuro, non c'è discussione, non avrebbe persa per nessuna ragione al mondo, io credo, Roberto. Allora, direi di far partire, compresa la Pellegrini, il treno dei delusi invece del primo weekend olimpico italiano. No, non avevo più di così, quindi ci ho provato fino alla fine. E va bene così, se comunque so di aver dato il massimo, è sicuramente una cosa che fa male, però va bene. Bisogna sempre notarlo quando è il momento. Guarda, non so cosa sia successo. Sono arrivato a 75 che ero veramente impiccato. Ma non è che ha provato a pulire troppo dietro Vandenburg, come abbiamo detto? Ho male fin dall'inizio. Ho nuotato male, dovrò rivederla sicuramente con Thomas. E è andata così. Non me l'aspettavo, sinceramente avevo un buon presentimento, stavo bene, stavamo bene, allenata e tutto. Alla fine due punti non sono niente, però ci hanno tolto la medaglia. I tuffi sono così, non era neanche un errore gravissimo, abbiamo perso due punti, quindi... Dunque, Pellegrini, Scozzoli e Tania Cagnotto, voci della delusione. Intanto vi aggiorno in diretta sul fatto che Sara Errani e Venus Williams sono in campo per il primo turno del torneo di tennis femminile, che Rossella Fiamingo ha battuto la giapponese Nakano e si è qualificata per gli ottavi nella spada, dove affronterà la statunitense Lawrence. Il piano partita qual è oggi, Dario? Stiamo un po' vedendo che come maturino i risultati, proprio perché Quintavalle e la spada da donne potrebbero spingerci verso l'Excel Arena, che tra l'altro è questo grandissimo padiglione dove sono ospitate diciamo i tre quarti delle attività olimpiche fuori dal villaggio. Quindi è questo. Poi stasera alle 20 qui locali c'è Italia-Giappone, l'esordio del volley femminile, e speriamo che vada decisamente meglio di quello che è accaduto ieri per quanto riguarda gli uomini. La netta sconfitta al 3-1 con la Polonia, che già qualche grattacapo ce lo crea nella strada verso le medaglie. Poi c'è sempre contro l'Australia, contro cui aveva esordito ieri il sette bello con una netta vittoria per 8-5, l'esordio del sette rosa, e quindi cominciamo a scaldare i motori dei tornei a squadre e diamo un po' un indirizzo a questi tornei che si preannunciano a quello che sono sempre fuori dei quarti di finale, ragazzi. Dario, io ti lascio andare, sento che hai da fare, vento nel telefono vuol dire che stai correndo, quindi ti lascio andare, naturalmente ci risentiremo più tardi in tutti i GR, nei vari appuntamenti olimpici, a cominciare da quello delle 18, dove speriamo di darvi buone notizie, soprattutto per quanto riguarda Giulia Quintavalle, che ricordo sarà sul tatami alle 15 per la gara di ripescaggio verso il bronzo. Roberto, provincia di Reggio Emilia. Sì, sono io? Sì, è lei. Sì, buongiorno a tutti. È stato detto direi abbastanza tutto, volevo riassumere dicendo che qui si scontrano le opinioni di chi di sport se ne intende poco e non sa cosa c'è dietro un ragazzo giovane che viene privato di tutte le sciocchezze che può fare in nome di, giustamente, un colore nazionale, un impegno, una medaglia. Riferendomi alla Pellegrini, paga secondo me un po' il fatto che non è molto d'incontro, il fatto che sia sotto i telescreen, che è una bella ragazza e non è stata lei a chiamare, ma è stata contattata e sicuramente gli sono state offerte un qualcosa a cui è difficile rinunciare. Io credo che sia più bello che tutti noi siamo più sportivi, tutti ci teniamo, ci fa piacere, abbiamo sofferto tutti che abbia perso, anzi sperare che vinca senza star troppo a giudicare cosa fanno, cosa non fanno al di là dello sport, che è poi l'unica cosa che dovrebbe a noi interessare. Ecco, la vedo un po' così, né a difesa né biasimo né elogio, la guardo, tifo per lei come per tutti gli italiani e spero tanto che ce la facciano, ma dietro Roberto, ripeto, io non ho nulla contro le luci di riflettore, ognuno sceglie di vivere la sua professione come ne ha voglia. Però sulla sovraesposizione di Federica Pellegrini non ci sono grossi dubbi. Sul fatto che comunque anche lei non abbia mai perso l'occasione per mettersi sotto la luce di quei riflettori, pure non ci sono molti dubbi. E ne abbiamo vari esempi. Continua a tornarmi in mente quella polemica molto tirata per i capelli su chi doveva portare la bandiera per la cerimonia inaugurale, su quel "ma preferirei di no" buttato lì prima ancora che si aprissero i giochi e i discorsi. Insomma, quello che vorrei dire è che molti atleti hanno la possibilità di buttarsi sotto i riflettori. Non tutti lo fanno, altri preferiscono il buio del lavoro, semplicemente questo. E la mia sensazione è che con questi continui cambi di allenatore, con questi continui, questa continua sovraesposizione mediatica, qualcosa Federica abbia perso. Allora, non sono d'accordo con Alberto da Udine che scrive: a questi livelli ad un certo punto non conta più la tecnica ma solamente la testa, i nostri cosiddetti campioni falliscono quasi sempre in queste grandi occasioni. Non è vero, i nostri campioni invece in queste occasioni spesso dimostrano di esserlo, a cominciare da Federica Pellegrini. Non siamo dei perdenti, non siamo dei cagasotto quando si tratta di combattere per le medaglie olimpiche. La testa, ad esempio, di Valentina Vezzali è qualcosa di mostruoso, no? E non mi pare che Valentina Vezzali abbia fallito nemmeno questo appuntamento, perché quella medaglia di bronzo, comunque, anche e soprattutto per il modo in cui è stata ottenuta, è stata un'impresa storica. E penso che si possa essere d'accordo su questo punto. Abbiamo una spia in giro per Londra, Gianmaria Vacirca. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Creative Olympics. Sì, molto, direi molto creativi. Che stai facendo? Sto facendo che sono a King's Cross. Sì. Alla fermata della stazione ho incontrato un mio amico di Luton. Sì. Che mi ha dato i biglietti per domani per le partite di pallacanestro, quindi dal mattino alla sera ci vediamo. Beh, quello che è il tuo sport, essendo dirigente di quello sport, cosa vai a vedere? Vado a vedere la sessione mattutina e pomeridiana. Invece la sera lascio spazio al mio amico e collega Raffaele Vitali, che va a vedere gli Stati Uniti contro la Tunisia. Ci vuole un bel coraggio da andare a vedere gli Stati Uniti e Tunisia. No, sono molto felice di andarci perché non ci sono mai stato, e quindi poi c'è questo mito del parco olimpico dove tu accedi solo col biglietto delle partite o di qualche partita o di qualche manifestazione, aggiungi 10 sterline per girarlo e fai dentro ovunque. La cosa molto interessante di queste Olimpiadi sono che tutti i biglietti per qualsiasi sport sono accompagnati da una Travel Day Card per accedere alla metropolitana, agli autobus e quant'altro. E quindi uno ha il biglietto con il biglietto per il mezzo pubblico, e certo, è una cosa che è molto intelligente. Trovi che tutto funzioni, tutto sta funzionando dal punto di vista dei trasporti e dell'organizzazione? Sì, non c'è il caos che soprattutto chi lavora a Londra temeva. Ho incontrato un paio di amici ieri sera che stanno vivendo con grande tranquillità tutto quanto. Una piccola curiosità: ieri sera ero a mangiare in un ristorante vicino al Tower Bridge, abbiamo fatto 4 chiacchiere con Jorge Garbajosa, che abbiamo incontrato lì, ora fa parte dello staff della Federazione Spagnola, e hanno cenato lì Navarro e Marc Gasol, che erano vicini al nostro tavolo, e devo dire che hanno fatto una bella cena a base di carne e se la sono bevuta. E tu cosa hai mangiato? Ma io ho mangiato una ribeye steak. Che poi verrà ovviamente recensito. Senti, un'ultima cosa: il torneo olimpico di basket credo sia la cosa più scontata, l'evento più scontato di questa Olimpiade. No, tra gli eventi scontati io ci mettevo anche la medaglia d'oro di Cavendish, poi ovviamente bam, puntualmente sono stato smentito. Vabbè, ma l'ineluttabile non puoi sul basket, l'ineluttabile non c'è nulla. No, direi che loro sono troppo più forti degli altri, gli altri non sono neanche completi, neanche in grande forma, sarà un torneo, sarà una passerella straordinaria, andremo a vederceli e comunque sarà una grande emozione, perché così è. C'è questo grande problema dell'affluenza alle manifestazioni sportive, vedrete in televisione impianti abbastanza vuoti. Questo perché sono stati dati migliaia di biglietti ai grandi sponsor di questo evento, che poi insomma la gente non ci va. Certo, i certo, biglietti non se ne trovano per nulla. No, sold out, però andando nelle tasche di chi ci ha messo il grano e che non ha trovato modo di distribuirli. Un ultimo tuo pensiero su Federica Pellegrini. Ma guarda, io ho visto la gara ieri sera in un pub che era pieno di tifosi per la nuotatrice britannica che è arrivata terza. Io sono rimasto, come dire, come tutti gli sportivi italiani, deluso dal risultato, ma reputandola probabilmente la più grande atleta donna italiana, forse di tutti i tempi, ci sta. Discutere la Pellegrini lo discutiamo perché è bella, perché va sui rotocalchi, perché fa le pubblicità, perché genera invidia. E quindi che tutti abbiano in gloria sempre e comunque Federica Pellegrini, qualsiasi tipo di vita faccia e qualsiasi tipo di scelte sugli allenatori faccia. Io sono assolutamente tifoso e tale resterò. Tifoso proprio, tifoso con la bandiera. Grazie Giamma, ci sentiamo. Buona, buona Olimpiada, grazie Gian Maria. Va circa Nicola Milano, Luca Grosseto, prossimi ascoltatori. Nicola. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io volevo dire la mia rispetto a quanto se la cerchi la Pellegrini, la ribalta, e quanto invece venga ribaltata dai media. Dopo la conclusione della gara 4%, mi pare la staffetta, i telecronisti della RAI hanno intervistato per 2 minuti soltanto lei, e quando poi era ora di intervistare le altre tre, immagino, al posto la pubblicità. Per dire. Sì, insomma, è il personaggio di spicco, no, Nicola? È il personaggio numero uno del nostro nuoto. Trovo non una cosa giusta, ma una cosa quasi normale che questo avvenga. Era il personaggio più atteso della domenica, era uno dei personaggi più attesi ed è uno dei personaggi più attesi della nostra Olimpiade, quindi non è che mi possa stupire più di tanto di fronte a questo. Luca da Grosseto. Buonasera. Buonasera. Complimenti. Finalmente si parla di sport come si deve, secondo me, con tutte le opinioni, anche perché se ne potrebbe stare a discutere un anno. Io parto da questa affermazione, non so se lei è d'accordo. Vediamo. Un atleta va giudicato per la prestazione che fa e per la prestazione che fa relativa a quel dato momento storico. La Pellegrini in questo momento non ha fatto una bella prestazione. Nulla toglie a quello che ha fatto e nulla toglie magari a quello che farà. Magari potrebbe essere anche una motivazione. Bravo. Per fare esatto, meglio. Esatto. Sicuramente. Però d'accordo. Va analizzata la prestazione. Esatto. Poi, quali sono i motivi che hanno portato a questo? La ribalta, l'allenamento, aveva la febbre, l'infortunio. Non importa, quello viene successivamente. All'inizio si parte da un'analisi. La Vezzali, cioè chiaramente partendo da un ranking, da un atleta che è centesimo nel mondo, che vince, ha fatto una cosa straordinaria. La Pellegrini, che fa le prime 2 o 3, arriva quinta, va analizzato. Però partiamo dalla prestazione. Certo. Da quello si parte e da lì poi si va a vedere le ragioni. Poi nessuno mette in dubbio il valore dell'atleta, e ma men che mai dell'uomo. Ma men che mai dell'uomo ma della chiaro, donna. Chiaro, chiaro. No, ma poi io non. Guardi, proviamo a capirci. Io non giudico assolutamente ciò che Federica Pellegrini fa fuori dalle piscine. Non me ne frega assolutamente nulla di ciò che fa fuori dalle piscine. È un personaggio e io credo che lo sport di oggi abbia bisogno di personaggi. Però. Lo sport è spietato e bisogna sapersi anche dosare, perché finché vinci puoi permetterti qualunque cosa, e lì si tratta di camminare su quel sottile filo che ti permette di rimanere competitivo, di tenere la testa sulla tua attività principale che è lo sport, eccetera eccetera, e questo da un lato, e dall'altro lato una notorietà, una sovraesposizione mediatica, un qualcosa che comunque ti può attirare critiche anche gratuite che magari non meriteresti o che magari hanno altre spiegazioni. Io non figuratevi, io farò il tifo insieme a Gian Maria Vacerca, il tifo con la bandiera per Federica Pellegrini nei 200 stile libero. Permettetemi però di essere deluso e di cercare di provare a capire le ragioni per cui ha nuotato in una brutta gara nei 400 metri, quindi permettetemi di capire perché, mentre sto vedendo quasi per caso tante foto e tante copertine di giornali che non sono sportivi e che la ritraggono. Umberto Belluno. Buongiorno. Dica. Pronto? Sì, eccomi. Io volevo fare una considerazione su quello che avete detto sulla Pellegrini. E praticamente io penso che la differenza di opinioni tra gli sportivi o tra quelli che hanno praticato sport e i giornalisti sia mostruosa, cioè mentre i sportivi riescono forse a capire le stati d'animo così, sì, chi magari lo giudica da fuori trova o più comodo o più facile o tante altre ragioni che magari sulla testa di un personaggio, di un campione non sono sempre così. io la penso così, insomma, perché a sentirvi voi giornalisti, che naturalmente fate il vostro lavoro, però va abbastanza sul superficiale, senza sapere magari per quale motivo uno cambia l'allenatore, per quale motivo può avere un milione di cose. Sì, la cosa però... più facile magari è sparare... Però guardi, quello che fai vedere, insomma. Sì, Umberto, io noto una grande voglia di difendere Federica, e questo mi fa sorgere un'altra considerazione. Perché siamo così spietati, ad esempio, con la nazionale di calcio che quando perde una partita? Qui siamo di fronte ad una sconfitta, tendiamo a comunque a giustificarla, a dire va bene, brava lo stesso. Fosse stata l'eliminazione della nazionale di calcio agli ottavi di finale dei mondiali, saremmo qui tutti con il martello e con i chiodi. Ora va bene tutto e ci sta tutto, però almeno proviamo a capire le ragioni, proviamo a capire, anche a discutere le ragioni di quella che è stata una sconfitta, sperando dopodomani invece di analizzare le ragioni di un'altra grande vittoria. È stato molto divertente parlare di sport con voi, lo rifaremo domani alle 10 cosa? Ah ok, 10 secondi alla fine, il tempo per i saluti a Franco Piantanida in redazione e a Mauro Comes in regia.